English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Questa sera parliamo di un uomo eccezionale. Sarebbe quasi un supereroe, non fosse che non ha poteri straordinari, se non il suo fisico straordinario, che gli consente di fare cose che voi umani, eccetera, eccetera. Davvero è straordinario. L'ha incontrato per noi il nostro Dario Ricci, e quindi noi lo ringraziamo perché ci ha regalato la versione inglese della sua intervista a Dean Karnazes. Io non sono un'esperta di corsa, ma Giulia, lui in realtà ho scoperto essere famosissimo perché fa delle cose incredibili. Sì, lui è un cosiddetto ultramarathoner, cioè un ultramaratoneta, ha scritto anche un libro, è uno, dopo ce lo dirà ridendo, che ha fatto questa cosa di 50 maratone, cioè 50 corse da 42,x chilometri, cioè la maratona classica come da copione, in 50 giorni, una dietro l'altra, una maratona al giorno per 50 giorni di seguito, un attestato americano, tra l'altro, per renderlo molto simbolico. Ecco, questo è l'ultramaratoneta. Non ha 20 anni, ne ha quasi 50, quindi questo rende le sue performance ancora più straordinarie. Ma sentiamo cosa ha raccontato a Dario Ricci, come ha cominciato Dean Karnazes. I started with the tequila. I did not like my life. I was drinking and I said no more and I go run. I run 30 miles without running, and said from now on I'll be a runner, and that's how I started. I think a true champion, the measure is if they can use their talents, their gifts, to motivate others to be healthier. And my mission is a global mission to promote healthy living as good for you, and it makes you feel better and happier. Beh, chi avesse già colto il senso di quello che ha detto lo troverebbe molto americano, perché lui ha quasi una missione nella forma fisica, nella salute, anche se, come il cognome ci suggerisce, di origine greca, lui è californiano, californianissimo. Come ha cominciato? Beh, subito con una battuta. Sì, questo lui lo racconta nel libro che io avevo letto, L'ultramaratoneta, e aveva un lavoro che non gli piaceva particolarmente, faceva il consulente aziendale, mi sembra, e questo suo disagio esistenziale, sì, dice I did not like my life, non mi piaceva la mia vita, infatti I was drinking, cioè bevevo, non era magari un alcolizzato, però beveva. E da qui, se gli si chiede come ha iniziato, beh, ho iniziato dalla tequila, I started with tequila. E poi a un certo punto ha detto basta. Sì, anche questo molto americano, no? Il punto fosse così semplice per tutti, però per lui, crediamogli, perché poi insomma i risultati sono lì davanti ai nostri occhi, per lui pare sia stato così. Un giorno ha detto adesso basta, quindi I said no more, basta tequila, basta drinking e probabilmente anche basta con il suo lavoro, and I go run. E per questa prima corsetta I run 30 miles, che ricordiamoci vuol dire 30 più 15, 45 chilometri, quindi già più di una maratona, without running, cioè l'ha fatto un po' senza pensarci. Beh, certo, tutti noi quando decidiamo di farci una corsetta facciamo così. That's how I started. È così che ho cominciato. E poi spiega: sì, sono un campione, ma ecco cos'è per me un campione vero. Sì, dice il true champion, the measure of a true champion, quindi la misura per capire se uno è vero, un vero campione, è questo. Sì, questo è di nuovo molto americano. If they use their talents, their gifts, quindi loro, il dono che hanno avuto, e lui ammette quindi che sì, d'accordo, si è alzato una sera, è andato a correre, perché quella prima corsa mi ricordo nel cuore della notte, però è anche un dono, cioè non è che proprio tutti noi possiamo fare così se abbiamo un problemino con l'alcol o con qualcos'altro, però insomma lui dice if the measure of a true champion is if they use their talents, their gifts to motivate others, in questo caso per motivare gli altri, quindi si possono motivare le persone in generale a qualche cosa di positivo, e lui dice to be healthier, per essere quindi più in salute, healthy, health, salute, healthy, in salute, e healthier, più in salute. Infatti poi parla di healthy living, cioè un modo di vivere sano, che proprio da americano è un modo di vivere che ti rende più felici, che ti fa stare meglio. Ricordiamo che gli americani spesso sono in gran forma e sono salutisti, e invece all'opposto ce ne sono molti che non hanno questa attenzione per il cibo, per la forma, e infatti poi Dean Karnazes ne parlerà. Sì, è un po' il bello dell'America, no? Tutte queste contraddizioni estreme, non contraddizioncine. Quindi, cioè, appunto, abbiamo i Dean Karnazes e poi abbiamo questi mega super obesi che magari se li incontri in un corridoio devi entrare in una porticella perché riescano a passare loro, perché tutti e due non si passano in un corridoio. Succede davvero, a me è successo personalmente nel corridoio di una palestra. Ma torniamo a Dean Karnazes. Il nostro Dario Ricci, che l'ha intervistato, è un appassionato di corsa. Allora gli ha detto, beh, come si fa, come ci si allena, cosa si mangia? Ecco cosa ha risposto Dean Karnazes. I follow a strict diet, the zone diet, and it helps with energy throughout the day. So no sugar, no flour, you know, pasta. And every day I make a commitment to exercise twice. And you don't have to run 50 marathons in 50 days. Just walk around the block, be active, and you'll be happier. I always run. I do not have an automobile. I just run. My body fat is only 3.5%, but other than that, we are the same. Allora, lui, non so se avete colto l'ultima affermazione, la mia percentuale di grasso corporeo è solo del 3,5%, ma a parte questo siamo tutti uguali, è vero, abbiamo tutti due gambe, due braccia, effettivamente lui è fatto in modo un po' diverso, dobbiamo spiegarglielo, ma si comporta anche un po' diverso dal punto di vista dell'alimentazione, questo bisogna riconoscerglielo. Sicuramente questo, di nuovo, nel libro lo spiega, lui ha un po', in realtà lui parla di zone diet, la dieta zona, che ha avuto un momento di popolarità anche qui. I follow a strict diet, strict vuol dire severa, intransigente, quindi la segue in modo, ci sono, non so, per esempio anche un teacher può essere strict, quindi un insegnante molto cattivo, molto duro, quindi sicuramente segue un regime alimentare e non sgarra, ecco, mettiamola così, perché it helps you with energy throughout the day, insomma lui ha trovato questa alimentazione che gli dà la sensazione di avere un'energia costante durante il giorno. Sì, a che prezzo però? Beh, intanto no sugar, no flour, you know, pasta, la pasta non tanto, ecco. La pasta non ti fa tanto bene vuoi correre la maratona. No, non potrei mai, guarda, questo no flour, cioè niente farina, quindi tutto quello che hai fatto con la farina non si può mangiare, io impazzirei. E comunque questa è la parte, diciamo, di alimentazione, poi c'è appunto quella di exercise, quindi lui dice every day I make a commitment, cioè mi prendo proprio un impegno, perché commitment è un impegno, anche il fidanzamento per esempio è un commitment, to exercise twice, quindi lui due volte al giorno fa il suo exercise, cioè la sua sessione di ginnastica, di jogging, non lo sappiamo, e forse fa due maratone al giorno, una questione un po' difficile, però insomma questa è il suo regime giornaliero, una dieta molto molto severa seguita in modo transigente, e poi questo twice a day exercise. E poi non ha l'automobile? I do not have an automobile, dice, I just run, evidentemente per gli spostamenti, poi non so se ha tipo un carrellino quando deve portarsi qualcosa, perché anch'io non ho la patente, io non ho la macchina perché non ho neanche la patente, e quando mi devo muovere con un bagaglio è un problema. E beh, lui non avrà problemi neanche a correre con il bagaglio, è così ultra Dean Karnazes. Lo dicevamo però prima, America, terra di grandi contraddizioni, e lui stesso un grande impegno nel diffondere il suo stile di vita, o perlomeno uno stile di vita più sano anche tra i giovani. Sentiamo proprio come ha raccontato questo aspetto della sua attività. We have a terrible problem in America with childhood obesity. And Italy, unfortunately, is facing the same problems. And I think that my children eat healthy and exercise because I do. I cannot tell young children, you must exercise, you must exercise. Then they will not. So I try to be a good example, a good role model for them if they want to exercise, and encourage them, yeah. I experience people saying, look what he can do. If he can do all that, I can do a little, poquito. And that's what I hear more than intimidate. I'm not intimidating. I'm just a man, just like you. Yeah. I'm not intimidating. You know, non, Non faccio soggezione, sono un uomo, sono come te. Beh, insomma, effettivamente ha delle prestazioni un po' diverse, però ha anche un'idea molto precisa. Io voglio essere un modello per le mie azioni. È inutile raccontare tante cose ai ragazzi. Sì, questo problema della childhood obesity, in realtà loro hanno un problema di obesità non soltanto nei bambini, ma appunto nella popolazione. Però è chiaro che se uno è obeso da piccolo, probabilmente la probabilità che lo resti tutta la vita è più alta. E quindi è lì, secondo Dean Karnazes e molti esperti, che bisogna intervenire. Quindi secondo lui Italy is facing the same problems, cioè anche noi affrontiamo gli stessi problemi, un pochino è anche vero. E qui dice una cosa molto giusta, che soprattutto con i bambini, e lui parla proprio dei suoi, my children, più che le lezioni o le indicazioni, you must exercise, sapete che must in inglese si può anche dire you have to, ed è lo stesso, però must, la differenza tra you have to e must è proprio che must è un ordine quasi che inderogabile, ecco, quindi usa questa parola apposta e dice: se io continuo a ripetere questa you must exercise, they will not exercise, non lo faranno, perché con i bambini funziona molto di più if I try to be a good example, a role model. Lui appunto in questo modo cerca di essere un role model, un modello per i suoi figli, ma in realtà anche incontrando le persone, perché lui ama farlo, e appunto dicevamo l'impressione che lui possa anche mettere un po' di soggezione e che sia addirittura troppo come modello, ma lui dice in realtà di no. Sì, anche perché diciamo che con i bambini funziona l'esempio e con i grandi funziona l'esempio di uno che fa le cose esagerate, quindi ti convince che insomma non si deve fare come lui, ma basterebbe fare un pochino. Quindi l'idea che invece gli adulti possono avere è: if he can do all that, I can do a little. Quindi se lui può fare così tanto, io posso fare almeno un pochino di quello che fa lui. Qui ci offre una piccola traduzione in spagnolo, perché spessissimo gli americani pensano che tanto italiano, spagnolo, quindi un pochito ci dice, va bene, abbiamo capito. E poi ci ripete questa cosa, che non ha l'impressione di essere uno che intimidisce le persone, bambini, children o adults che siano. Poi devo dire che effettivamente il fisico dei maratoneti, cioè, non sono dei gladiatori, effettivamente questo 3.5% of fat sono dei corpi asciuttissimi, quindi forse se li tocchi fanno un po' paura perché sembrano fatti di piombo, però a vederli non sembrano neanche questi atleti eccezionali. Poi dopo però quando li vedi correre o sai che corrono 50 km al giorno... A me solo l'idea, insomma, io lo trovo un po' intimidating, a me fa un po' di soggezione, però davvero straordinario questo Dean Karnazes. Grazie anche a Dario Ricci che ci ha regalato questa intervista. Il nostro tempo radiofonico anche per questo sabato, ai noi, è terminato. Devo ringraziare Roberto Scaltritti in regia, ricordarvi l'appuntamento con English 24 in edicola. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.